100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. È stato il petrolio il tema che ha caratterizzato e movimentato le sedute di borsa della seconda parte della scorsa settimana. Petrolio che ha ripreso a correre sulla notizia dell'intervento militare dell'Arabia Saudita contro i ribelli sciiti dello Yemen. Il Brent, il greggio europeo, è tornato vicino ai $60 al barile. Lo Yemen non è un produttore rilevante, ma si trova in una posizione geografica molto delicata perché da qui transitano quasi 4 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati. L'intervento saudita fa anche temere un ulteriore deteriorarsi delle relazioni fra sunniti e sciiti e anzi qualche esperto sostiene che più che i prezzi del petrolio oggi quello che dobbiamo tenere sotto controllo è il livello delle scorte americane di greggio che al momento sono sullo stesso livello su cui si trovavano nel 90 alla vigilia dello scoppio della guerra del Golfo. A preoccupare gli investitori anche la possibilità di una Grexit in attesa che la Commissione europea possa esaminare le riforme che Atene le sottoporrà. Dopo aver toccato così i massimi degli ultimi 5 anni, a partire da mercoledì, si sono viste delle consistenti prese di profitto sui principali listini internazionali. I temi di Piazza Affari nel weekend, la notizia che un'altra azienda italiana finisce in mano straniere, la svizzera Dufry compra World Duty Free dalla famiglia Benetton, che cede al gruppo di Basilea la propria partecipazione. Nasce così il leader mondiale nel settore del travel retail aeroportuale. Si tratta di un gruppo da oltre 3 miliardi e mezzo di euro. In casa Pirelli è stato formalizzato l'arrivo del partner cinese di ChemChina che con Canfin lancerà un'offerta pubblica d'acquisto su Pirelli in estate. Il mercato però ha fatto capire che l'offerta di 15 euro dovrà essere alzata. Infine è ripreso a correre le popolari, la riforma che le trasformerà in SPA e legge, il mercato scommette sulle aggregazioni in arrivo. Occhio oggi alle aste del Tesoro italiano che colloca 2 miliardi di BTP a 5 anni e 2 miliardi e mezzo di BTP decennali. Dagli Stati Uniti arrivano i dati su spese personali e redditi delle famiglie, ma il dato più importante è quello che arriva venerdì, la disoccupazione di marzo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Due casi che riguardano grandi aziende a controllo italiano continuano a tenere borsa sui mercati finanziari. Da una parte c'è Pirelli con l'offerta da 7,1 miliardi di euro che gli ha rivolto il colosso cinese ChemChina. Dall'altro c'è World Duty Free, il colosso dei duty free, appunto dei negozi senza tasse negli aeroporti, che è stato messo in vendita e di fatto finalizzata la vendita da parte dei Benetton agli svizzeri della Dufry. Ma che cosa sta succedendo con queste due aziende? Da una parte vediamo il titolo Pirelli che addirittura ha messo a segno un rialzo del 16% negli ultimi 20 giorni, un po' sulle aspettative di una vendita, un po' poi quando si è concretizzata veramente l'interesse dei cinesi e che oggi continua a correre, più 10% in borsa. Che cosa si aspetta il mercato? Il mercato, visto l'interesse che i cinesi hanno dimostrato sul colosso delle nostre gomme, si aspettano che un altro concorrente si faccia avanti con un'offerta anche più generosa. Intervistato a livello internazionale, il presidente di ChemChina ha detto: beh, noi manterremo l'integrità della Pirelli, la salvaguarderemo come azienda italiana. D'altra parte, ha detto scherzando, i noodle non hanno niente a che vedere con gli spaghetti e questo lo speriamo anche noi, visto che appunto Pirelli a livello internazionale si è ormai affermato come un colosso del settore dell'automotive. Per World Duty Free il discorso è diverso. Evidentemente il mercato, che sta continuando ad abbattere e a picchiare sul titolo del World Duty Free, oggi parla del 10%, sembra credere che cosa? Che l'offerta degli svizzeri sia troppo bassa e che quindi, se vuole il consenso della borsa, questa operazione dovrà mettere di più sul piatto. In altre parole, in entrambi i casi sembra aspettarsi che qualcosa di più generoso venga sulle due aziende italiane. Dall'altra parte ci sono reazioni differenti. Morale: quando le aziende italiane valgono, l'interesse del mercato c'è. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.